Benedetto sia Dio che mi ha benedetto in Cristo con ogni benedizione nei cieli. La sua grazia mi avvolge oggi e la sua luce si rivela in me. Sono benedetto, sono custodito, il Signore veglia sui miei passi. Sono benedetto, sono amato, la sua pace dimora. Splendere il suo volto su di me.